grandi discorsi in ore piccole, bocche che si aprono per tirare fuori suoni come cani che abbaiano. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, si parla per parlare, parliamo per dire chi siamo, per arricchirci in conoscenze di mondi campati in aria. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Questa sera mi voglio immergere nel silenzio. Questa notte io resterò da solo con me stesso. Boom, boom, boom, da da da da.